Io prego che stamattina vi state svegliando con la consapevolezza che la domenica di Pasqua, la domenica di resurrezione, e prego che sarà un giorno benedetto per voi, anche per quelli che stanno guardando adesso. Prego straordinarie benedizioni e rivelazioni per voi di cosa veramente questo giorno significa. Questa è probabilmente la prima Pasqua nella storia, degli ultimi secoli, che noi, la Chiesa, siamo separati come siamo adesso. Voglio ricordare a noi stessi che forse che verso la fine del primo secolo, nei primi secoli, ci possono essere state molte domeniche di risurrezione in cui la Chiesa non ha potuto incontrarsi. Forse perché stavano subendo persecuzioni nell'impero romano e dovevano stare casa per casa o incontrarsi nelle catacombe o anche dispersi nelle campagne, ma non erano capaci di venire, non erano in grado di unirsi insieme. I tempi sono cambiati, ma credo anche che Dio stia raffinando la sua Chiesa. Non voglio anticipare il messaggio di oggi, ma voglio che apriate con me la vostra Bibbia se siete seduti nel vostro soggiorno. Primo Corinzi, capitolo 15, un capitolo potente che è usato per predicare in molti funerali. È un capitolo completamente sulla risurrezione e per il rapimento di coloro che sono morti in Cristo. È una delle più dettagliate descrizioni della risurrezione, un capitolo potente. Quindi vi chiedo di aprire la vostra Bibbia. E voi in Europa, quando vi svegliate, spero che trovate questo messaggio e che la vostra Pasqua include riunirvi con la vostra famiglia, vestitevi bene, sistematevi i capelli, preparatevi per il giorno del Signore, sedetevi e guardate questo messaggio insieme alla vostra famiglia. Non dimenticate che abbiamo anche delle presentazioni per voi di New Hope e dei nostri bambini, una presentazione di adorazione, che sono dei video che sono stati fatti da Paul Blanco, il nostro bravissimo Paul, e anche vi invito alle decime, alle offerte, a lodare il Signore dall'inizio alla fine, come se fossimo insieme. Leggerò adesso 1 Corinzi, capitolo 15, da 1-8. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve lo ha annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fosse seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli. Io non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. So che questa non è una lettura tradizionale per Pasqua dal Vangelo, ma è una lettura che ci parla oggi nel nostro tempo presente, perché quando Paolo scrive questo ai Corinzi, sono passati circa 25 anni dalla risurrezione di Gesù e alcuni dei personaggi della narrativa del Vangelo sono morti e le persone che erano bambini o non erano ancora nati al tempo di Gesù adesso sono giovani adulti, alcuni sposati con famiglie. Quindi, mentre c'erano ancora tante persone vive che avevano testimoniato personalmente gli eventi del Venerdì Santo e della mattina di Pasqua, la maggior parte della Chiesa non aveva non era stata presente, non erano testimoni diretti. E quindi la Chiesa di Corinto, non avendo avuto testimonianza diretta, dovevano credere solo per fede, come noi. Credevano per fede nel messaggio del Vangelo e credevano non solo nel messaggio, ma in qualche misura credevano nel messaggero stesso che era Paolo. Quindi ciò su cui loro si basavano, la comunità cristiana a Corinto, era una totale fede nel messaggio del Salvatore risorto. Come noi oggi, noi non abbiamo più testimoni oculari, sono passati secoli, ma noi crediamo per fede. E quindi Paolo sta scrivendo ai Corinzi, loro non sono mai stati a Gerusalemme, probabilmente non hanno mai incontrato nessuno degli altri apostoli, questi Corinzi non avevano un ricco background, non erano cresciuti con una formazione non erano cresciuti ascoltando i Salmi, Isaia. Ma nonostante questo avevano fede e credevano, come oggi noi. Noi crediamo senza aver visto ed è questa che è chiamata fede. Sappiamo che in ebrei è scritto senza fede è impossibile piacere a Dio e noi ci riuniamo ogni domenica a causa della nostra fede. Quindi quello che i Corinzi non avevano, ma e che invece avevano erano la testimonianza dello Spirito Santo. Se noi leggiamo la lettera ai Corinzi, sappiamo, è chiaro che loro sono stati battezzati nello Spirito Santo. Quindi è chiaro che erano battezzati di Spirito Santo, che operavano nei doni spirituali. Sappiamo che avevano una passione per il parlare in lingua, anche se Paolo gli dovette insegnare come farlo nel modo giusto. Paolo dice: noi crediamo senza aver visto. Anche noi, Chiesa, noi abbiamo creduto senza aver visto. Anche noi abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. Abbiamo visto l'opera dello Spirito Santo, abbiamo l'operazione dello Spirito Santo attraverso la nostra Chiesa. Mi chiedo quanti di voi possono identificarsi con la Chiesa di Corinto. Voi non avete visto lui, ma avete creduto. E avete dentro di voi un testimone, lo Spirito Santo che testimonia di Gesù Cristo. Adesso, Chiesa, voglio iniziare il mio messaggio, il cui titolo è La scomodità di Pasqua. Questa è una Pasqua scomoda, non è vero? Soprattutto negli Stati Uniti, perché noi finora abbiamo fatto sempre la Pasqua, l'abbiamo celebrata come in nessun altro paese, almeno la comunità religiosa. E noi nell'Ovest i pastori sono proprio chiamati a una grande operazione, perché per noi la Pasqua è come una sorta di Super Bowl nel calendario della Chiesa, è il weekend più importante dell'anno. Questo include pubblicità e altro, il grandissimo giorno. E i pastori pianificano e preparano questo giorno per a volte mesi in anticipo. Un tempo, come tanto tempo fa, si cerca di fare Pasqua eccezionale. Organizziamo tanti eventi, il barbecue, la pubblicità, gli inviti davanti alla chiesa. Ci vestiamo bene. Ma avete notato in questi giorni, in questo ultimo periodo, che c'è un eccesso in America soprattutto, una cultura della Chiesa che usa le tecniche di marketing per attrarre le persone, affascinarle, accattivarle verso la Chiesa come se fosse un grande evento. Ci sono celebrità che vengono a visitare le chiese per attrarre le folle. C'è una chiesa, anzi molte, che hanno avuto elicotteri che lasciavano cadere, piovere migliaia di uova sulla congregazione. Una chiesa con uova di plastica, contenenti biglietti con cui potevi vincere una TV a schermo piatto. Una chiesa diceva che i primi che arrivavano prima del mi primo migliaio aveva il pranzo libero, o addirittura una lotteria per vincere una macchina. Ho visto un sito web con 15 idee marketing per Pasqua. Grande giorno, grande evento, grandi folle. Cerchiamo di essere onesti. Questa quarantena ci ha tirato fuori il minimo indispensabile. Non ci saranno grandi eventi, non ci saranno gente accatastata, non ci sarà un grande evento, non ci sarà nulla. Non ci saranno palcoscenici, non ci saranno grandi pubblicità né marketing, proprio nulla, quindi nessuna folla. E questo è scomodo per i pastori occidentali. Abbiamo davanti a noi questa scomoda decisione su cosa dobbiamo fare per Pasqua. Molti pastori sono in questa strana posizione di avere tanti strumenti in mano, ma non sapere che farne. Forse era proprio tempo che Dio ci rendesse scomodi a Pasqua. Dio usa questa scomodità per cambiarci, per motivarci o per spostarci al posto dove vuole che noi andiamo, che noi siamo. Abbiamo considerato oggi che questo è esattamente ciò che sta accadendo alla Chiesa. Dopotutto, il weekend di Pasqua originale non aveva nulla di comodo. Includeva dolore, trauma, paura, ansia, fallimenti, delusioni, profonda tristezza. La tomba vuota l'abbiamo avuta a un grande prezzo. Qualcuno è dovuto morire prima. Gesù, colui che era senza peccato, ha dovuto morire 24 ore senza sonno, la delusione di essere abbandonate, il dolore dell'ingiustizia di essere falsamente accusato. Colui che era senza peccato doveva soffrire, morire e doveva soffrire prima. 24 ore senza sonno, il dolore di essere tradito, la delusione di essere abbandonato, il dolore dell'ingiustizia di essere falsamente accusato, la perdita di sangue, il pianto di sangue nel giardino, le mani trafitte dai chiodi. E anche sulla croce, dopo la croce, quel sabato, i discepoli erano disorientati, preoccupati, spaventati da quello cosa sarebbe accaduto, smarriti. L'agonia di Giuda, la sua colpa, la sua morte, l'agonia di Pietro, di Maria, nel vedere il suo bambino cresciuto ormai soffrire. E fu un tempo di scomodità dopo la morte di Gesù. E in quella prospettiva, chi siamo noi per lamentarci in questa Pasqua perché ci troviamo scomodi e stiamo in una situazione di sconvenienza. Sì, sono tempi scomodi e dobbiamo fare aggiustamenti, dobbiamo essere ristretti da ogni parte, dobbiamo affrontare i problemi della vita che diventano più difficili perché recentemente abbiamo avuto molti funerali, ieri e la scorsa settimana molti funerali che nessuno ha potuto frequentare, bambini che sono nati e nessuno ha potuto celebrarli. Nostri membri che sono malati o che stanno attraversando difficoltà e non possiamo visitarli. Ed ecco che qui abbiamo Pasqua e tutto ciò che ci rimane da offrire è il messaggio. E io lo sottometto a voi, che avendo levato tutto, tutti gli adornamenti, tutte le decorazioni, il messaggio è abbastanza. Guardiamo di nuovo 1 Corinzi 15, verso 1 e 2. Quello che io ho annunciato, che voi avete ricevuto, nel quale state salvi, mediante il quale siete salvati. Quello che io ho annunciato, quello che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, mediante il quale siete salvati. Questo è il messaggio. Nel verso 3 dice, quello che io ho ricevuto e l'ho trasmesso. Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Chiesa, questo è il messaggio. E adesso, per la prima volta, forse dopo secoli, è adesso il pezzo centrale della nostra Pasqua. Io sono grato per questo. Ma guardate cosa fa Paolo qui. Paolo ci dà quello che doveva essere stata una comune presentazione nella Chiesa di quei tempi. Questo è una sorta di argomento apologetico che rinforza la verità della Chiesa, delle origini della risurrezione di Cristo. Lui dice, prima di tutto, uno, è stato visto da Pietro, vivo. Due, è stato visto dai dodici. Dice i dodici perché Mattia fu testimone oculare, fu aggiunto ai dodici. Quindi lo troviamo aggiunto ai dodici al posto di Giuda, che era morto, nel libro degli Atti. Poi continua dicendo, fu visto vivo da 500 testimoni. Questo potrebbe avere incluso i due sulla strada per Emmaus, ma anche tutti quelli che erano riuniti al Monte degli Ulivi quando Gesù ascese al cielo. Poi dice, fu visto da Giacomo quando venne ucciso, il cielo si aprì e lui riuscì a vedere Cristo esaltato. E Paolo dice, infine sono io testimone, io l'ho visto me stesso. Un autore chiamato Lee Strobel scrisse questo libro alcuni anni fa, un caso per Pasqua, e lui disse che come prova in un tribunale penale, 500, scusa, 5, quindi questo Lee Strobel era un avvocato, un investigatore. E nella sua mente, diciamo da giurista, anche da investigativo, specifica questa cosa, che in un tribunale penale avere 500 testimoni oculari di un evento sarebbe una prova indiscutibile. Già un testimone in genere convince la giuria, due testimoni aggiungono ancora forza, cinque testimoni oculari chiudono il caso, decidono il caso, ma 500 testimoni, ognuno di loro che vengono in tribunale a testimoniare dicendo esattamente la stessa storia, questo è un caso che non può né assolutamente essere negato. Quindi l'altro potente testimone è Paolo stesso, e la sua testimonianza è potente. Innanzitutto era giovane, era ben educato, parlava molte lingue, era di classe alta, faceva parte del Sinedrio, aveva una buona posizione politica, aveva la cittadinanza romana, aveva ogni cosa per renderlo attendibile. Paolo, nonostante questo, lascia andare, rinuncia a tutte queste cose per associarsi a un gruppo di persone ignoranti, classe di lavoratori, pescatori. Molti di loro criminali. Perché mai un giovane germoglio, così promettente, rinuncerebbe a tutto per mischiarsi con queste persone di classe bassa, ignorante, a meno che non fosse accaduto qualcosa di estremamente potente nella sua vita? Paolo questa cosa la vide personalmente, vide Gesù risorto sulla strada di Damasco, e questo fu un evento che cambiò completamente la sua vita, farlo diventare colui che predicava che Gesù era vivo. Chiedetevi perché Paolo sarebbe stato disposto a diventare un ricercato, odiato nella sua città. Sarebbe passato dal persecutore a essere il perseguitato nel corso di una notte, senza incontrare un Salvatore vivente. La sua vita cambiò completamente. Diventò uno dei viventi testimoni di Gesù. In parte perché Gesù, perché Paolo venne a loro testimoniando con la potenza dello Spirito Santo, e nel libro degli Atti, libro 2, Paolo dice. Quindi in parte Paolo venne, arrivò ai Corinzi con tale potenza perché lui testimoniava della risurrezione di Gesù nella potenza dello Spirito Santo. E nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, lui gli dice proprio questo: io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. Perché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Quindi lui venne con la dimostrazione del potere dello Spirito Santo. È quello che Gesù stesso ci dice nel Vangelo di Giovanni. Quando lo Spirito Santo viene, lui sarà un testimone alla verità di Gesù Cristo. Ecco perché Gesù ci dice in Atti 1:8: e dopo che riceverete il battesimo dello Spirito Santo, ecco, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Vedete, noi oggi non abbiamo visto il Salvatore risorto, ma noi crediamo perché lo Spirito Santo ci ha portato rivelazione di questa verità e noi sappiamo che è così. Lui è il testimone in noi e quello stesso Spirito Santo battezza il credente con potenza, così che adesso noi diventiamo testimoni al messaggio. Quindi tutti i programmi, tutto il marketing, tutta la pubblicità, tutto questo non c'è oggi e noi e voi siamo lasciati con il semplice messaggio da sole. Noi serviamo un Salvatore risorto che ha mandato lo Spirito Santo a testimoniare di questa verità e E indovinate, questo è proprio abbastanza. Paolo continua in quel capitolo 15, è un grandissimo, un importantissimo capitolo, e lui continua. E se Cristo non fosse risorto, e se Cristo non fosse davvero risorto, allora noi predicatori siamo bugiardi, voi siete ancora in peccato e la vostra fede è inutile. Se Cristo non è risorto, Satana ha ancora la potenza, la puntura della morte è crudele, i prigionieri non hanno speranza, gli accusati non hanno nessun difensore, noi siamo schiavi per sempre. Ma ecco la verità oggi, ditelo a tutti, fatelo sapere in tutto il mondo. Cristo è risorto, quindi noi siamo stati liberati dal peccato, la nostra fede non è invano. Satana è completamente distrutto, la morte non ha più il suo pungiglione e noi siamo stati messi in libertà attraverso Gesù Cristo. Questa è la verità. E vi do oggi una parola di incoraggiamento perché se c'è un momento che forse qualcuno deve ascoltare è oggi, se è un momento in cui si ha bisogno di incoraggiamento è adesso. Ricordo 1 o 2 anni fa ho insegnato, ho predicato sul principio della primizia, forse ricordate, forse avete note oppure no. Voglio che vi ricordiate il principio delle primizie, dei primi frutti. Scrivete questo. La primizia santificata, santa. La primizia santifica l'intero. Questo è il principio della primizia. In Romani 11-16 troviamo questo passo che parla di Israele e dei gentili. Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami dell'albero sono santi. In altre parole, se la primizia è santa, santifica tutto il resto. Quindi noi offriamo la primizia per santificare l'intera porzione. Noi vediamo questo modello che si ripete dalla Genesi all'Apocalisse. Non ho tempo, ma se avessi tempo farei un messaggio solo su questo. Abramo fu il primo a determinare che il 10% era la quantità che egli avrebbe offerto come primizia. Non sappiamo perché, non sappiamo perché ha scelto il 10%, ma sappiamo che lui stava dando l'offerta della primizia ed era il 10% e decise che la porzione del 10% era la porzione appropriata. E la parte successiva del capitolo ci dice che Dio gli diede una ricompensa sovrabbondante, che quindi Dio gradì questa offerta. Pensate alle piaghe d'Egitto in Esodo. Fu la decima piaga che fu un'offerta della primizia. Come lo sappiamo? Perché Dio lo disse a Mosè. Preso i primi nati di Egitto per santificare i figli d'Egitto. E fu la decima, il 10%, la percentuale del decimo per prendere la primizia, l'offerta di primizia dai figli d'Egitto. Attraverso questa decima i figli di Israele sarebbero stati santificati. Gerico, Dio disse: Gerico è una città primizia, non toccatela, attraverso Gerica verrà santificata il resto della terra promessa di Israele. E in che modo questo si applica alla domenica di Pasqua? vi voglio offrire una verità. Noi come cristiani adoriamo nel primo giorno della settimana. Questo è una primizia che santifica il resto della settimana. Noi adoriamo al mattino per santificare il resto del giorno. Noi diamo la nostra decima del nostro guadagno per santificare il resto dei nostri possessi materiali. Ma consideriamo adesso Gesù. Lui fu il primo nato dei figli di Dio che santificò, in modo da santificare tutti noi, affinché saremmo divenuti figli di Dio. E quando lui risorge il primo giorno della settimana, lui santifica il resto della settimana per noi. La scrittura dice: questo è il giorno che il Signore ha fatto. Gioiamo e siamo contenti in essa. Gesù è risorto nel primo giorno della settimana, ha santificato la settimana ed ecco perché la domenica è un giorno primizia per noi. E lui è risorto per vivere per sempre. Altri sono risorti, Lazzaro, il figlio della donna di Nen. Ma Gesù è risorto dai morti per vivere per sempre. E guardate cosa dice Paolo in 1 Corinzi 20, 15-20. Quindi 1 Corinzi 15-20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Lo afferrate? Principio della primizia, dalla Genesi fino alla risurrezione di Gesù. Chiesa, il principio della primizia non è una cosa solo del Vecchio Testamento. Esistito sempre fino all'Apocalisse ci saranno immagini della primizia, ma la più potente è proprio questa, è la buona notizia in 1 Corinzi 15. Cristo è risorto dai morti e facendo questo è diventato la primizia di tutti coloro che si sono addormentati. Lui è la primizia di tutti coloro che sono morti in lui. In altre parole, Gesù è Gesù la primizia. Ha reso santi tutti coloro che sono morti in lui. Quando lui è risorto, è stato compiuto ciò che il Salmo aveva dichiarato: preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi santi, perché sono stati fatti santi attraverso la risurrezione della sua primizia. La primizia è un principio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Anche il battesimo di Spirito Santo è chiamato da Paolo una primizia. A noi è stato dato la primizia dello Spirito Santo, è quel tipo di primizia che santifica il nostro futuro. In altre parole, lo Spirito Santo non è altro che un assaggio di quello che ci è promesso per l'eternità. Non so se lo state cogliendo, ragazzi. Wow, se non siete battezzati nello Spirito Santo, forse questo è il momento. Non è forse questo un bel tempo per ricevere la pienezza dello Spirito Santo? Se lo Spirito Santo vi ha toccato sulla spalla, vi ha convinti di peccato e vi sta mostrando la strada, vi dice non guardate né a destra né a sinistra, sta lavorando sul vostro cuore, vi sta dando forma, vi sta ripulendo, ma il battesimo dello Spirito Santo non è la stessa cosa che lo Spirito Santo che lavora su di voi, è lo Spirito Santo che opera in voi, vuole vivere in voi, vuole scorrere da voi. Questo è ciò che è chiamato battesimo dello Spirito Santo. In Atti 2 è stato promesso da Giovanni Battista, è stato promesso da Gesù molte volte, è stato descritto in Atti 2 la prima esplosione dello Spirito Santo. E quando la scrittura dice questa promessa, quella dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, è per voi, per i vostri figli, per i figli dei vostri figli, per quanti il Signore chiamerà a noi. E questo battesimo dello Spirito Santo è disponibile per voi. E Gesù ha detto, e questo non c'era nelle mie note, ma io sto fluendo proprio con lo spirito. Quindi Gesù stesso in Giovanni 7, intorno al verso 38-39, dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Quindi, condizione 1, e poi chi crede in me? Condizione 2, e infine 3, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Lui vuole fluire da voi, attraverso voi. Lui vuole fluire fuori da voi, e quando lui fluisce fuori da voi, fuori dal vostro stomaco ci scorreranno fiumi di acqua vivente. Lui vuole scorrere attraverso voi, ma perché non è il vostro lavoro e opera dello Spirito Santo, lui scorrerà attraverso voi in ogni momento in cui adorerete, e lo Spirito Santo vi darà anche parole che non comprenderete. E quando fluisce fuori dalla vostra bocca, voi cominciate a magnificare, a glorificare Dio. È un lavoro, è un'opera di fede che scorrerà attraverso voi in adorazione e lode, perché la Bibbia dice che lui ci darà, ci farà esprimere in modi che noi non capiamo, in misteri. Ma Dio vuole che noi siamo pieni dello Spirito Santo, vuole che lo Spirito Santo fluisca da voi nei modi che lui ha promesso. Siete pronti? Lo Spirito Santo è una primizia. Gesù è la nostra primizia. Lui è morto sulla croce come primo figlio di Dio, è risorto come primizia della risurrezione. Lo Spirito Santo è una primizia dell'essere alla presenza di Dio e vuole che noi siamo gente primizia. Questo è proprio ciò di cui si occupa Pasqua. Lo scopo della primizia è di rendervi santi. Questo è ciò di cui voglio parlare. Non abbiate timore delle cose che Dio ha chiamato sante, perché Dio si prende cura di ciò che è stato santificato in Lui. Siete dei figli di Dio perché siete nati di nuovo, allora siete stati fatti santificati e santi. E siete un'offerta. Ecco Chiesa, perché io credo che la Chiesa andrà tutto bene per la Chiesa. Ho letto da qualche parte che un pastore ha detto: questo sarà ricordato nella storia come il momento in cui la Chiesa buttata giù e ha rinunciato. E io mi chiedo: ma di quale chiesa parla? Della chiesa del Dio vivente? Lui dice: io costruirò la mia chiesa, e non riesco a immaginare nessun governo, nessuna autorità, sindaco, sceriffo che possa superare la chiesa del Signore Gesù Cristo. Noi crediamo che Lui sia vivo e che stia bene. Penso che Lui sia potente. Noi crediamo che Lui è potente, come sempre. E io vi prometto, Chiesa, che in questa folle, irrazionale paura di questa quarantena, noi sorgeremo e noi risorgeremo e noi staremo di nuovo in piedi sui nostri piedi, perché noi siamo pieni di qualcosa che non può essere legislato via. Perché Cristo è morto, noi crediamo che Cristo è morto, che Lui è risorto secondo le scritture. È questo il Cristo in cui voi credete oggi. Questo è un affare di risurrezione. La Chiesa starà bene, voi tutti starete bene. Se voi obbedite il Signore, continuerete con le vostre decime le vostre offerte, Dio santificherà tutto ciò che avete e il diavolo non potrà toccare ciò che avete. Se voi siete, se la vostra settimana è santificata al Signore attraverso l'offerta della primizia della domenica, qualunque cosa voi affronterete in questa settimana è già stata santificata, quindi non temete di affrontarla. Non temete ciò che Dio ha santificato. Non abbiate ansia sulle cose che Dio ha reso sante. Ed ecco perché, so che sembra un cliché che i santi di Dio non abbiano paura, perché? Perché Dio ha detto non abbiate paura di ciò che è stato santificato. Negli anni 80 c'era una specie di spettacolo dell'orrore che si chiamava Storie dalla cripta, andava in TV e doveva spaventare. Diciamo che avevo un, mi, era, doveva, in teoria mi doveva spaventare, ma ora che io sono grande e sono stato santificato, so chi è chi mi ha santificato, io non ho paura delle storie della cripta. Non c'è nessuna storia del cimitero che mi spaventa. Sento la voce degli angeli che ancora. Che la voce degli angeli che risuona, che rimbomba dalla roccia lì a Gerusalemme, perché cercate tra i morti colui che è tra i vivi? Colui che non è qui. Lui è risorto come aveva detto. Questa è l'unica storia dal cimitero, dalla tomba, che ha un'influenza sulla mia vita. Io non ho paura della tomba, io vivo in gioia, io vivo con la potenza della risurrezione che vive in me. Non ho paura della malattia e della morte perché preziosa è alla vista del Signore la morte dei suoi santi. Una buona notizia è venuta dal cimitero più di 2000 anni fa e noi la stiamo ancora predicando e noi restiamo ancora fermi su questa e io voglio che voi siate incoraggiati da questo perché la buona novella dice questo. In 1 Corinzi 15 Paolo dice grazie sia fatta a Dio, letteralmente, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La vittoria è vostra perché Gesù ci vi ha dato la vittoria per la lotta che lui ha vinto. Questo è il messaggio, Chiesa, e il mio incoraggiamento a voi. Proprio adesso, se Paolo sta parlando di tutti i testimoni, il messaggio come un'apologia, la vittoria è vostra, non perché l'avete guadagnata, non perché voi avete combattuto la battaglia, ma perché Gesù vi ha dato la vittoria attraverso la lotta che lui ha vinto. Quindi il mio incoraggiamento a voi adesso è se Paolo sta parlando di tutti i testimoni del messaggio come apologetica e vi dice di essere testimoni, io vi sfido oggi. Dopo aver sentito questo messaggio, che voi testimoniate, date testimonianza a più persone che potete, che Gesù è vivo e sta bene, che la storia della risurrezione è vera, che la storia del venerdì è ancora viva, come lui ha cambiato tutte le cose, ha trasformato tutto, come ha trasformato la vostra vita. Sapete cosa vorrei, cosa amerei vedere? Che così tante persone testimoniano intenzionalmente questo mese che il diavolo si infuria e si allontana, il diavolo si arrabbi, si infuri per averci cacciato fuori dalle porte della chiesa, di qua, per quante persone predicano che Gesù è vivo. Voi testimonierete a qualcuno in questa settimana il vero messaggio del Vangelo. Penso che quando riuscirò a tornare in Italia, stavo pregando proprio oggi, Signore, voglio davvero tornare in Italia. Voglio andare a casa. Quando sono lì penso voglio andare a casa e penso che è il Texas. Quando sono qui penso voglio andare a casa ed è voi, da voi in Sicilia. Quando torno voglio che voi mi rendiate così occupato a battezzare persone che mi vengano le rughe alle mani perché rimango sempre bagnato. Quindi farete bene a star fuori lì, a guadagnare anime, a conquistare anime, a testimoniare. Ascoltate, ragazzi, guardate il video, guardate le lodi, l'adorazione con i vostri figli. Mercoledì pomeriggio facciamo lo studio biblico. Abbiamo la lavanda dei piedi, abbiamo fatto la lode insieme. Prendetevi cura di qualcuno. Restate con la Chiesa. Date le vostre offerte. Continuiamo a fare tutto ciò che Dio ci ha insegnato a fare. E assicuratevi di amare tutti quelli che fanno parte della nostra zona di influenza e connessione. Quindi Paolo ha detto questo, noi come ministri siamo servi e amministratori, gestori. E io non voglio dimenticare questo, io sono un servo verso di voi e sono un amministratore di ciò su cui Dio mi ha posto ad amministrare. Se avete bisogno di preghiere, postatele mentre guardate e io risponderò io e altri guerrieri di preghiera. Scrivetemi se siete pronti a essere salvati, se volete essere nella lista dei battesimi. Io pregherò, mi messaggerò, pregherò insieme a voi. Faremo anche un video dal vivo e pregheremo qualunque cosa è necessaria la faremo. Se siete pronti a ricevere lo Spirito Santo, alzate le mani proprio mentre state guardando. Gesù ha detto semplicemente: venite a me, chiedete, siete assetati per questo e sarete riempiti. Lo Spirito Santo vi vuole riempire proprio più di quanto lo volete voi. È pronto a battezzarvi, vi darà un'espressione divina. Non vuole il vostro, non vuole il vostro discorso, la vostra parola, ma vuole la vostra sottomissione. E io pregherò con voi, ovunque voi siate, adesso alzate le mani. Quindi alzate le mani adesso. Gesù ha detto, credete, siate assetati e sarete riempiti. Pregherò per voi in questo momento, alzate le mani se volete. Quando parliamo di parlare in lingue, Gesù non è interessato alle lingue di cui parlate, ma è interessato alla vostra resa, alla vostra completa sottomissione. Vuole che voi siate una mouthpiece, si dice in inglese, una bocca che parla per lui. Comunque adesso, ovunque voi siate, alzate le mani al cielo e lasciatemi pregare per voi. Padre, nel nome di Gesù, ti ringrazio per la Chiesa, il corpo di Cristo, e prego Dio mentre loro vanno fuori a testimoniare, che tu gli dia potere, potenza di essere integri, di essere sinceri e di testimoniare dello Spirito Santo. E ti prego per quelli che non sono salvati, che tu li attiri a te attraverso la tua potenza. E prego per ogni persona che è pronta a essere battezzata dallo Spirito Santo, che sia oggi. Riempili, Signore, riempili con la tua pienezza. Signore, fluisci da loro come acqua vivente, battezzali con potenza e dagli gioia spirituale che tu hai promesso. Con il loro cuore aperto, lascia che loro adesso possano lodare con piena potenza, con piena espressione, gioiosamente proprio in questo momento, nel nome di Gesù, e che la loro vita non sia mai più la stessa. E tutti diciamo nel nome di Gesù, Amen. Ragazzi, vi voglio bene e aspetto di vedervi mercoledì al Bible Study e vi auguro una bellissima, bellissima giornata di Pasqua. E vi vedrò presto.